Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buona giornata da Deborah Rosciani, ben ritrovati a Salva Danaio. Stiamo continuando a parlare da tante settimane, siamo anche allo sfinimento per certi versi e voi ce lo denunciate tutti i giorni, di tutte le pieghe della crisi in corso. Però da un po' stiamo trascurando anche coloro che quest'anno stanno pagando in maniera forse del tutto inattesa gli effetti della crisi finanziaria, cioè coloro che avevano investito in titoli, obbligazioni, polizze, prodotti di investimento a vario titolo legati all'unica grande banca d'affari lasciata fallire, la Lehman Brothers. Oggi vorremmo tornare a fare un punto della situazione prima delle vacanze di Natale, perché si è allungata recentemente la lista delle compagnie che hanno deciso di aiutare con modalità non ancora chiare i clienti detentori dei loro prodotti legati a Lehman. Ma in tutto questo, e di questi abbiamo parlato poco per la verità negli ultimi tempi, sono in attesa anche di capire che sorte avranno gli investitori di obbligazioni Alitalia. Tutto questo, come al solito, ci darà anche modo di tornare a formulare dei consigli, dei suggerimenti su come tutelarsi da possibili perdite da prodotti finanziari. Per cui anche oggi trasmissione sicuramente molto interessante e utile, speriamo per molti di voi. 800 24 00 24, numero verde per i vostri interventi. I nostri interlocutori di questa mattina, l'avvocato Gianfranco Graziadei, rappresentante comune degli obbligazionisti Alitalia, oltre che membro del comitato di sorveglianza su Alitalia, avvocato, professore di diritto bancario alla LUISS di Roma, che saluto subito. Avvocato Graziadei, benvenuto. Buongiorno, sono in linea, buongiorno a lei. Buongiorno e grazie anche all'avvocato Giovanni Franchi, invece coordinatore nazionale della consulta legale Conf Consumatori, che conosciamo da anni, ci ha aiutato molto a capire cosa succedeva in ambito Parmalat in passato. Oggi invece il suo cavallo di battaglia in questo momento è l'assistenza ai sottoscrittori e detentori di prodotti legati a Lehman Brothers. Avvocato Franchi, buongiorno anche a lei. Buongiorno. Qui in studio a Milano con me invece l'avvocato Susanna Buonvino dello studio legale BDDF di Milano, e in questo caso con l'avvocato Buonvino, oltre a commentare quello che sta accadendo sui temi che vi ho appena preannunciato, cercheremo anche di stilare, perché anche gli studi legali lo fanno, questa serie di raccomandazioni per poterci proteggere in futuro da brutte sorprese e cattive sorprese, appunto perché abbiamo capito di aver fatto un investimento sbagliato, come è capitato molto spesso purtroppo negli ultimi anni anche nel nostro paese, ma non solo nel nostro paese. Numero verde ve l'ho ricordato, abbiamo anche il numero per i vostri messaggi 349-238-6666, e vedo già tra l'altro alcuni ascoltatori che chiedono, per esempio, visto che di Alitalia parleremo di obbligazioni, ma chi aveva azioni che cosa può sperare? Vincenzo da Napoli, non credo che ci siano molte speranze di recuperare qualcosa, anche se il ministro Tremonti, quando è stata dichiarata l'insolvenza della società, aveva detto tuteleremo tutti, azionisti ed obbligazionisti, poi per la verità sono state individuate ben poche strade per tutelare tutti alla stessa maniera, ma se avremo modo ne parleremo anche questa mattina. Adesso un'occhiata alla borsa, anche qua oggi di nuovo cattive notizie, i cali sono molto forti in Europa questa mattina, abbiamo Londra che perde il 3,53%, ma ben più pesanti sono Francoforte, meno 5% in questo momento, Parigi -5,52%, Milano -5,70%. Le borse oggi hanno ben pensato di annullare, cancellare tutti i rialzi degli ultimi giorni. Perché? Perché il Senato americano non si mette d'accordo sul piano di sostegno al settore automobilistico statunitense, quindi non vuole salvare l'industria automobilistica americana. E già peraltro, secondo gli indicatori anticipatori, secondo i futures americani, già General Motors negli Stati Uniti oggi dovrebbe aprire con un calo di nuovo intorno a qualcosa come il 30%, per cui bruttissima giornata per il settore automobilistico anche in Europa. Infatti Fiat a Milano perde il 7%, ma va peggio anche per i titoli bancari, neanche a dirlo. Intesa -9,37%, per la verità per il gruppo Intesa San Paolo c'è l'uscita di scena del numero 2 del gruppo, Pietro Modiano, che penalizza così evidentemente il titolo. Saipem -7%, Tenaris -7%, Unicredito -7%, Monte dei Paschi -7%, qua potremmo continuare ancora a lungo. Nessun titolo positivo a Piazza Affari in questo momento, un paio di quelli che perdono meno, Seat -1,43%, Fastweb -1,46%. Lasciamo la borsa, andiamo al tema di oggi, ritorniamo sulle tutele che riguardano i sottoscrittori, le famiglie italiane o gli investitori italiani che hanno sottoscritto prodotti di investimento dai quali negli ultimi tempi hanno avuto brutte sorprese. Non ci sono regali in vista questo Natale per i sottoscrittori di obbligazioni Lehman Brothers, la banca d'affari americana andata in default lo scorso 15 settembre. Il ministro dell'economia Giulio Tremonti ha parlato di un recupero sul valore dei bond di appena il 30%. Uno scenario più roseo si sta invece configurando per i sottoscrittori di polizze legate a titoli Lehman. Dopo gli annunci di Unipol, BCC Vita e Mediolanum, ora anche CNP Unicredit Vita, Fonsai Banco Popolare e AXA Italia hanno comunicato la loro intenzione di tutelare i propri clienti. Ed altre compagnie assicurative stanno valutando questa possibilità, non solo per Lehman. Sul fronte Islanda si è mossa per ora Reale Mutua, che ha in portafoglio 5 prodotti di tipo index linked legate a bond di banche islandesi finite in amministrazione controllata a causa delle difficoltà nel rifinanziamento sui mercati internazionali. Resta invece incerta la sorte degli azionisti obbligazionisti di Alitalia, i cui titoli sono sospesi dalle contrattazioni dal 4 giugno scorso. Ma sia per il caso Lehman che per Alitalia, l'eventuale rimborso dipenderà dalle offerte che arriveranno per la rilevazione degli asset delle due società. E le associazioni dei consumatori non restano a guardare. È stato già presentato un atto di citazione nei confronti dell'agenzia di rating Standard & Poor's, che fino al giorno prima del crack assegnava Lehman Brothers il rating A, sinonimo di notevole affidabilità. Probabilmente invece non vedranno le aule di un tribunale le altre vittime di crack eccellenti come Cirio, Parmalat e Bond Argentini. La tanto attesa class action, ancora allo studio del governo, rischia di diventare un'arma spuntata se, come sembra, dovesse limitarsi a violazioni avvenute dal 1 luglio 2008 in avanti. 800 24 00 24, numero verde per i vostri interventi. Oggi non iniziamo con i nostri ospiti la nostra chiacchierata, cominciamo con un ascoltatore, Roberto da Napoli. Roberto? Sì, buongiorno. Buongiorno, la mando in onda subito, è rimasto sorpreso. No, assolutamente. Volevo soltanto chiedere, io sono sottoscrittore di una polizza United Link che è agganciata a un'obbligazione Lehman Brothers, sì. Polizza della Zurich Investment, acquistata tramite la Deutsche Bank, la mia banca, e volevo sapere in sostanza appunto che cosa succedeva di questi 10.000 euro sottoscritti. Infatti, Roberto, tra l'altro il gruppo che lei ha citato non credo che ancora abbia, anche se c'erano delle attese in questo senso, intrapreso neanche dal punto di vista della comunicazione alcuna iniziativa, non ha diciamo ancora detto niente, però se come dire ci aspettiamo che magari faccia come hanno fatto altri gruppi italiani, dovrebbe anche Zurich intraprendere qualche iniziativa appunto di non dico risarcitoria, ma insomma di sostegno alla propria clientela. Su Zurich non sappiamo ancora niente, Roberto, magari ne parleremo con i nostri interlocutori. Allora, visto che su polizze index linked collegate a Lehman Brothers abbiamo iniziato con Roberto, devo iniziare il nostro giro di conversazione con l'avvocato Giovanni Franchi, coordinatore nazionale della consulta legale Confconsumatori. Avvocato Franchi, allora, a parte il fatto che ovviamente la questione Lehman si apre a molte considerazioni, perché abbiamo non solo detentori di obbligazioni di polizze vita che sono agganciate a titoli Lehman, ci sono anche detentori di obbligazioni dirette, quindi già in primo luogo dobbiamo sgombrare il campo da alcuni equivoci e spiegare bene che ci sono situazioni molto differenti, no, tra i risparmiatori. Sì, allora è opportuno fare subito una distinzione. Perché? Perché tra i risparmiatori c'è chi ha comprato titoli, più in particolare obbligazioni Lehman Brothers, e c'è ancora chi, come l'ascoltatore, ha invece acquistato una polizza assicurativa, che poi assicurativa non è, come spiegare, index linked, garantita da bond Lehman Brothers. Ora, per quanto riguarda la prima posizione, e cioè dei titoli Lehman Brothers, la Lehman Brothers è una società che ha iniziato ad andare in crisi nel 2007 a causa dei mutui subprime. E quindi in primo luogo si può dire le banche, e del resto lo ha detto anche il presidente della Federal Reserve, che non ha salvato Lehman Brothers perché le banche ne erano a conoscenza, anche le banche italiane, sebbene avesse un buon rating Lehman Brothers, devono e possono essere colpite per acquisti effettuati dai primi del 2007. Però sì, possono essere colpite secondo l'orientamento delle associazioni dei consumatori. Esatto, l'orientamento, noi riteniamo delle norme poste a difesa dei risparmiatori, cioè del TUF e del regolamento Consob attuativo del medesimo. Però c'è un responsabile prima ancora e sono le agenzie di rating. Questo è il motivo per il quale la Concosumatori è agita in giudizio, ha agito in giudizio in primo luogo contro Standard & Poor's, perché Standard & Poor's ha delle sedi secondarie in Italia e quindi era più semplice da convenire in giudizio. E c'è da dire che Standard & Poor's dovrà rispondere sia per gli acquisti effettuati dalle persone dal 2007 in poi, perché doveva modificare il rating. E la mia espressione, tra l'altro, non deriva da una considerazione generale. Bisogna tenere ben presente il fatto che la materia oggi è regolata dal cosiddetto codice IOSCO. Vi chiederete che cos'è il codice IOSCO. Il codice IOSCO è un codice predisposto dall'International Organization of Security Commission. Mi parli in italiano, naturalmente, avvocato, certo, perché dobbiamo aiutare i nostri ascoltatori anche. Dall'Organizzazione Internazionale della Commissione per la Sicurezza delle Agenzie di Rating, che una organizzazione americana, ma c'è da tenere presente che questo codice predisposto da questa organizzazione è stato anche recepito dalla Commissione europea. Quindi è un provvedimento che ha efficacia anche in Italia. Ecco, detto questo, quindi nel concreto dove vuole arrivare, avvocato? Voglio arrivare, mi scusi se mi sono dilungato, al fatto che le agenzie di rating avevano l'obbligo di chiarire immediatamente il fatto che il rating non era più quello che loro avevano dato, cioè non era più A, era un rating inferiore. Se l'avessero chiarito in fretta, la gente non avrebbe comprato quei titoli o comunque li avrebbe venduti risparmiando molto, e quindi il danno sarebbe stato veramente molto più limitato. Molto, detto questo, avvocato, poi ci torneremo su questi aspetti, vorrei sentire anche l'avvocato Buonvino che cosa ne pensa anche dell'iniziativa dell'atto di citazione nei confronti dell'agenzia di rating, se può essere anche una strada utile, no, per dare qualche speranza a quei risparmiatori che temono di perdere tutto l'investimento che hanno effettuato in questi prodotti. Però, per esempio, abbiamo già detto che ci sono alcune compagnie di assicurazione che hanno detto tuteleremo i nostri clienti. Nel caso di Zurich non abbiamo ancora notizia che lo abbia fatto. Allora, secondo lei, un ascoltatore che ha questo dubbio, ha un prodotto del quale non sa se gli verrà risarcito o meno, come può tutelarsi nei confronti della società che gli ha venduto il prodotto in questo momento in cui ancora ha un'incertezza sulle iniziative che il gruppo prenderà, e semmai ne prenderà, tra l'altro? Vengo immediatamente al caso, qui sarò ancora spero più rapido, perché queste non sono dei veri e propri bond, ma sono apparentemente dei prodotti assicurativi, che in realtà assicurativi non erano. E perché non erano prodotti assicurativi? Perché erano sottoposti al pagamento da parte della società che aveva messo i bond che garantivano l'assicurazione. Siamo qui di fronte, a mio avviso, a un cosiddetto, mi scusi la professione latina, poi la spiegherò in italiano, agliut pro agliut, cioè quando viene venduta una cosa per un'altra. Si dice che viene venduta una assicurazione e in realtà viene venduto un prodotto finanziario, sì. Qui è un prodotto finanziario, tra l'altro non accompagnato da tutte le garanzie previste dal testo unico finanziario circa per la conoscibilità del prodotto. Questo secondo quanto? Siamo dell'opinione che se la banca o l'assicurazione non si fa carico della perdita, il consumatore, il risparmiatore potrà agire per avere indietro i suoi soldi, facendo accertare la nullità del contratto. Benissimo, allora avvocato Buonvino, ha sentito come si stanno muovendo le associazioni dei consumatori? Abbiamo soprattutto parlato di questa iniziativa che per certi versi ha del clamoroso. Parte da Bari, la prima causa contro le agenzie di rating per Lehman Brothers, e oltre a Consumatori ci sono dentro anche Codacons e l'iniziativa Movimento Consumatori. Voi avete stilato di recente come studio legale BDDF queste 5 vie per tutelarsi contro le perdite in prodotti finanziari, avete valutato anche l'iniziativa dell'atto contro l'agenzia di rating, che qui è ritenuta effettivamente abbastanza responsabile, no, di quello che accade, perché non si è accorta in tempo di come stava andando la cosa per Lehman Brothers. Però osservo che mentre noi avevamo pensato a un'iniziativa transnazionale, cioè evidentemente una tutela che possa essere data alle imprese che hanno investito una certa entità nelle azioni obbligazioni, bond, Lehman's, da effettuare però all'estero, quindi era una soluzione che poteva essere fornita agli imprenditori. Non avevamo individuato l'azione diretta italiana, in Italia, perché comunque le loro sedi sono direttamente in America, quindi vedremo adesso il Tribunale di Milano, che è molto rigoroso sul punto, come interpreterà questa azione. Certo, è un dato di fatto che le agenzie di rating non sono regolamentate in Europa, e quindi questo potrebbe essere una spinta a vedere attuare delle regole più rigide. Consideri che non sono né sottoposte alla vigilanza, non hanno una modalità di spiegazione di come calcolano e valutano i rischi, e soprattutto hanno un grande diciamo conflitto di interessi, perché ovviamente forse è il problema numero uno, perché assegnano rating a chi le paga, e soprattutto chi è nel board, cioè nel consiglio di amministrazione, Citigroup, JP Morgan, quindi le tre grandi agenzie di rating, sono Moody's, Fitch e Standard & Poor's, sono appunto diciamo così controllate da chi dovrebbero controllare. È una questione di cui si dovrà indubbiamente, credo, tenere conto nel momento in cui comunque dovranno essere studiate anche le soluzioni per venire incontro tutte quelle persone che hanno sottoscritto prodotti di investimento legate a Lehman. E tutto quello che sta succedendo intorno a Lehman cosa le suggerisce? Obbligazioni dirette, polizze, allora, che noi riteniamo quelle che ci proteggono da qualsiasi come dire problema certo, che può capitarci nella vita, e poi scopriamo che invece hanno un contenuto finanziario, avvocato. Diciamo che noi abbiamo individuato come legali delle azioni da intraprendere in via diretta o indiretta, come dicevo prima, in via transnazionale, cioè estera. Cioè nell'esperienza maturata presso il Tribunale di Milano, dove abbiamo assistito imprese in cause in prodotti e strumenti finanziari, il Tribunale di Milano ha dato delle regole ben precise, cioè può essere chiamato in causa l'intermediario qualora venga provato una serie di circostanze, primo tra tutti l'assenza dei documenti legali, cioè i documenti, i moduli che non sono stati sottoscritti determinano quella che viene usata nel gergo legale la nullità del contratto, certo, cioè la possibilità per il cliente finale di annullare, cioè completamente distruggere il rapporto sottostante, e quindi richiedere la restituzione del capitale investito e eventualmente anche tra l'altro è stato il presupposto anche per molte cause vinte nell'ambito delle situazioni bond argentini, Parmalat, esatto, e quant'altro. Anche se devo dire che nei bond argentini rispetto a Lehman la situazione è differente, cioè dagli atti è emerso una consapevolezza delle banche di affidare o comunque vendere prodotti altamente rischiosi, in questo scaricare caso, sui risparmiatori prodotti un po' rischiosi. Lo comunque, faccio io la traduzione, diciamo, non si preoccupi. Il problema è che con Lehman's è un po' diverso, perché rappresentava uno dei più grandi gruppi bancari al mondo, quindi è valutato fortissimo, la solvibilità era altissima. Non di meno anche le società di rating davano valutazione molto alta, quindi è un po' difficile andare a scaricare su Lehman la consapevolezza, quindi sull'intermediario che vendeva queste azioni e bond, la consapevolezza di vendere qualcosa che fosse non solvibile. Infatti è una situazione talmente differente, tanto che le banche o le assicurazioni che hanno venduto questi prodotti si stanno incaricando appunto di assumersi completamente le responsabilità. Pare che Unicredit stia tentando, esatto, proprio in questo punto. È l'ultima, infatti ne parleremo tra poco, però 30 secondi di tempo per far fare la domanda a Vanni da Bologna, e poi dopo il break cominceremo anche a chiacchierare con l'avvocato Grazia Dei per il caso Alitalia, piaga anche aperta per molti risparmiatori. Vanni, buongiorno, rapidissimo se riesce, la ringrazio. Buongiorno dottoressa Rossani, è davvero un piacere, questo devo dirlo. Grazie. La domanda è comunque diretta, visto che io sono un azionista come tanti altri da tempo di Alitalia, non abbiamo speculato su questa cosa come chi invece ha comprato le azioni negli ultimi 6 mesi o nell'ultimo anno, e siamo quelli che comunque hanno creduto nella compagnia e rischiato di più, perché siamo i primi ad essere tagliati fuori? Perché questo non mi sembra giusto. Certo, comunque a lei non sembra giusto, però come dire, proprio nello spirito dell'essere azionista, no? Ci si assume un determinato rischio, è l'investimento più rischioso in assoluto, e di conseguenza in casi clamorosi come questi Vanni se ne pagano le conseguenze. Però non voglio essere disfattista, sentiremo anche l'avvocato Grazia Dei, anche se lui ha un po' più il polso della situazione per gli obbligazionisti, ma avremo modo anche di commentare la situazione per chi invece aveva azioni all'Italia sospese dalle contrattazioni dal 4 giugno. Eccoci ritrovati a Salvadanaio, incontenibile l'avvocato Bonvino, con la quale chiacchiero piacevolmente anche a microfoni spenti, perché poi tra l'altro, di nuovo, come abbiamo avuto modo di constatare anche nelle altre trasmissioni, il tema che affrontiamo stamattina si presta davvero a tantissime considerazioni e, come dico spesso, all'apertura di tante parentesi. Allora, risparmiatori rimasti invischiati nel caso Lehman Brothers, punto della situazione nell'ambito di tutte le compagnie di assicurazione che hanno dichiarato di voler attivarsi per tutelare questi clienti. Alcune ancora non lo hanno fatto, altre hanno fatto delle iniziative, come dire, di marketing, però non sono ancora entrate nel concreto per capire, per dimostrare come vorranno tutelare la propria clientela. E oggi abbiamo aperto, oltre a Lehman Brothers, anche la parentesi ad Italia, perché dopo la dichiarazione dello stato di insolvenza di settembre non si è ben capito che sorte avranno e gli obbligazionisti di Alitalia, ma anche gli azionisti. Avvocato Gianfranco Graziadei, rappresentante degli obbligazionisti Alitalia, ma sono sicura che vorrà dirci la sua anche su quello che pensa a proposito degli azionisti, che sono, come dire, lì appesi dal 4 giugno intanto alla borsa, perché il titolo è stato, io ritengo giustamente, forse doveva esserlo anche prima, sospeso dalle contrattazioni. Però credo che per chi abbia puntato sul capitale di rischio, un po' come era successo con Parmalat, ha molte meno speranze di riottenere qualcosa rispetto ad un obbligazionista. Dico giusto, avvocato? Dice correttamente. Difatti volevo fare forse una piccola precisazione teorica ma semplice. Azionisti e obbligazionisti stanno da una parte diversa della barricata. Gli azionisti sono le tessere che compongono il soggetto Alitalia. Gli obbligazionisti sono un gruppo di persone che ha prestato dei soldi all'Alitalia e sono dei creditori dell'Alitalia. In un certo senso potremmo dire che gli obbligazionisti sono i creditori degli azionisti e gli azionisti sono i debitori degli obbligazionisti. Tutto questo sarebbe vero se le procedure concorsuali, nell'evoluzione del tempo, dopo la riforma Ghietti, le normative sull'amministrazione straordinaria, Bersani e in ultimo il decreto Alitalia, non avessero stravolto fortemente le regole del concorso dei creditori nei casi di insolvenza. Mi spiego meglio. Il fallimento una volta era un qualche cosa che doveva servire soltanto ad allineare tutti i creditori dietro la stessa linea di partenza, garantendo la par condicio, cioè un trattamento pari ai creditori in relazione ai loro gradi di prelazione. Con l'avvento della legge Prodi, oggi che si chiama in altra maniera, si è invece cominciato a privilegiare il discorso della continuità dell'azienda e soprattutto del mantenimento dei livelli occupazionali. Tant'è vero che i commissari straordinari erano autorizzati a vendere a un prezzo anche più basso di quello di mercato, però ad un acquirente che garantisse il più alto livello occupazionale. Con il decreto Alitalia siamo arrivati addirittura a qualche cosa di diverso. Difatti nel decreto Alitalia c'è quella norma che prevede una specie di ciambella di salvataggio per piccoli azionisti e piccoli obbligazionisti, quindi quella distinzione da cui sono partito in partenza, che dovrebbero essere azionisti e obbligazionisti l'uno da una parte e gli altri dall'altra della barricata. Nel caso Alitalia, diciamo, non rileva, come si direbbe in gergo quasi legale. Non rileva, per cui a un certo punto vengono trattati quasi come fossero tutti quanti dalla stessa parte, cioè come se la qualità di essere piccolo, ma non sappiamo che cosa ci dice la legge di essere piccolo, portasse a alcuni benefici rispetto al grande azionista o al grande obbligazionista. C'è da tenere presente una cosa, che questa variante fatta nel cosiddetto decreto Alitalia riguarda soprattutto l'ammissione ai benefici dei cosiddetti fondi dormienti e non riguarda altro. Però alcune confusioni si stanno facendo sul mercato. Per esempio, in questo momento qui davanti agli occhi lo specchietto delle date d'udienza fissate dal Tribunale di Roma per la verifica dei crediti, tanto posso anticiparle che gli obbligazionisti sono in fondo a tutta la categoria e verranno verificati, la verifica dei crediti avverrà mercoledì 21 ottobre 2009 alle ore 10. Il prossimo anno quindi. Il prossimo anno. E pensi una cosa però, che la categoria subito precedente, quella che verrà verificata martedì 6 ottobre, questo non significa nessun diritto di prelazione, insomma sono soltanto delle date, è quella degli azionisti. e con mio grande scupore io vendo tra i creditori dell'Alitalia gli azionisti. Hai stupito di questo aspetto, avvocato? Sono stupito sì, perché un azionista non è creditore della società fallita. È la società fallita. Mm-mm. Detto questo, avvocato, grazie a lei, tanto per entrare nel concreto poi ai suggerimenti da dare a chi ancora non si è mosso, pur essendo o azionista o obbligazionista, in questo caso appunto proprio per la sua competenza all'Italia, c'è ancora tempo per, come dire, insinuarsi al passivo? Mi rendo conto che stiamo usando un gergo che per molti degli nostri ascoltatori è incomprensibile, però per poter dire, presentarsi all'azienda e dire io sono nel diritto di essere risarcito dopo quello che è accaduto? O la procedura è terminata? Per presentarsi all'azienda i termini, le scadenze sono queste. Per gli azionisti c'è una scadenza martedì 6 ottobre 2009 ore 10 e quindi entro quella scadenza devono presentare, se ci avranno altre loro cose, gli azionisti. Quindi, tanto per dirlo anche all'ascoltatore che ci ha chiamato prima, che è un vecchio azionista, lui allora può fare l'insinuazione al passivo? Certo, può farla e lo verificheranno. Lo verificheranno il giorno 6 ottobre. C'è da tener presente che il giudice ci ha già detto in un precedente provvedimento, che peraltro ho fatto pubblicare lì sul sito dell'amministrazione straordinaria, che ai fini di agevolare la raccolta della documentazione da parte dei singoli, il termine per il deposito e la data dell'udienza saranno indicati con ampio preavviso, almeno 2 o 3 mesi. E del provvedimento sarà data comunicazione con le forme idonee. Quindi la data dell'udienza oggi la sappiamo, che è questa, 6 ottobre per gli azionisti, 21 ottobre per gli obbligazionisti. Però un termine ultimo per il deposito non è stato ancora dato, anche se il giudice ci aveva assicurato che questo termine non sarebbe stato mai stabilito prima dell'estate. Avvocato, le faccio sentire 2 ascoltatori che a vario titolo sono coinvolti appunto nella vicenda d'Italia. Laura da Treviso prima e poi Felice dalla provincia di Milano. Rapidissimi se riusciamo, perché abbiamo anche in lista d'attesa, vedo molti ascoltatori ancora su Lehman Brothers. Laura, buongiorno. Buongiorno, tanti auguri per la trasmissione che è fortissima. Grazie, io Laura. Mi chiedo una cosa, mio marito è dipendente ex dell'Italia in pensione, nel 98 ha avuto, invece dell'aumento e gli incentivi vari, hanno come quasi tutti i dipendenti all'Italia, azioni all'Italia, che all'epoca valevano svariati milioni, parliamo del 98, non potevano venderle prima del 2001 e poi mano a mano sono sempre più calate. Adesso di 10.000 azioni che valevano 10 milioni, adesso a 343 azioni valgono 152 euro. Ecco, io mi chiedo che cosa dovrebbe fare. Laura, sento, faccio così, ragionare un attimo l'avvocato grazie a te, poi sento intanto nel frattempo anche Felice da Milano. Felice? Sì, sono presente, è stato molto chiaro l'avvocato. Io sono possessore di un piccolo risparmio di obbligazioni all'Italia convertibili. Ricordo qualche anno fa, quando le avevo acquistate, la banca mi aveva assicurato 100 lire, o perlomeno il nominale in euro, fossero 1.000 euro, alla scadenza 1.000 euro senza la conversione. L'unico rischio mi era stato proprio chiarito, che era solo il fallimento dell'Alitalia. E puntualmente... Puntualmente si è verificato, però non ho ancora capito bene se è stato chiaro l'avvocato, però si può far causa, perché l'Alitalia non mi pare fallita. È vero che ci sono nuove disposizioni che sono state fatte dai vari governi, ma allora a questo punto... Non so, insomma, non riesco a capire. Insomma, c'è stata una. Sì, Felice, abbiamo capito. Allora, siccome devo andare adesso a sentire suggerimenti per chi è in viaggio, poi torniamo da lei. Di fatto c'è stato uno sdoppiamento della compagnia, una bad company, una good company, l'abbiamo detto 1000 volte. Quindi una compagnia con gli asset sani, che è stata rilevata appunto dalla cordata con la Ninno e Kai, e poi tutto il resto che viene invece adesso gestito dal commissario straordinario Augusto Fantozzi. Allora, avvocato, grazie a te, abbiamo sentito 2 casi molto differenti di detentori di titoli all'Italia in maniera diversa. Vogliamo cominciare dall'ascoltatrice, il cui marito è pensionato e aveva ricevuto come benefit appunto in passato azioni all'Italia che adesso non hanno praticamente alcun valore. Secondo lei può insinuarsi al passivo l'ascoltatore? Per lei, io francamente qui è prevista la possibilità dal giudice di un'insinuazione al passivo, ci può provare. È quello che ho detto prima, secondo me un azionista non ha titolo per insinuarsi al passivo. Il caso della signora è un po' particolare, perché nasce da un accordo aziendale, da un appendice di un contratto di lavoro. Quindi forse per quello potrebbe trovarsi, vedendo le carte che non conosco, in base a come è stato fatto questo accordo, se è stato imposto dall'azienda o se ha avuto un'adesione da parte del marito della signora, questo non lo posso dire così. Comunque io un tentativo lo farei. Eventualmente due indicazioni pratiche, avvocato, per poterlo fare, cosa bisogna fare? Beh, per poterlo fare basta riempire un modulo praticamente, una domanda con elezione di domicilio. Comunque è bene per fare una cosa di questo genere che si rivolga a un professionista romano, può anche essere un commercialista o qualcheduno, perché poi dopo deve seguire e soprattutto deve eleggere domicilio a Roma, perché la signora, se mi pare che sia Treviso. E quindi non verrebbe informata, le informazioni della signora verrebbero date con notifica generale alla cancelleria, quindi dopo diventerebbe un inferno per lei andare a prendere le informazioni. Felice da Milano invece ha obbligazioni convertibili all'Italia, lui chiedeva chiarimenti anche sulla natura della sua situazione alla luce del fatto che poi tecnicamente non c'è stato un fallimento, no, della società, c'è stata una vendita degli asset che avevano un determinato valore, la costituzione di una compagnia nuova. Avvocato, il caso di Felice da Milano cosa le suggerisce? Ecco, su questo bisogna fare diverse precisazioni su quello stesso che ha detto lei. Prima di tutto, la posizione degli obbligazionisti è ben diversa da quella degli azionisti, perché l'insinuazione degli obbligazionisti è stata già fatta per tutti dal rappresentante comune, cioè da me. Da lei. Loro non devono più chiedere niente, devono soltanto giustificare e documentare di essere obbligazionisti, e per questo avranno il termine che gli darà il giudice. Come la documenteranno e si giustificheranno, siccome questi sono titoli dematerializzati, gli unici rapporti loro li hanno con gli intermediari finanziari, banche, SIM, SGR e quant'altro, dovranno chiedere alla banca presso cui hanno i titoli depositati i certificati, che le banche sanno fare benissimo, e con quelli poi dopo inviarli alla cancelleria commerciale. Questo per quello che riguarda gli obbligazionisti. Poi lei mi dice un'altra cosa, che qui ci sono due società, una che viene venduta alla CAI e una che resta. No, qui c'è una società sola. Il discorso, purtroppo, la bad company e la good company, sistema usato per altre vicende, non è stato seguito per la vicenda d'Italia. L'Italia è una società che finisce con la cessione di alcuni beni alla CAI. La CAI compra alcuni beni a certe determinate condizioni che conoscete, sarebbe forse non questa la sede per riassumerli, ma compra solo dei beni. La CAI è una società diversa, non è una good company che eredita qualcosa, eredita soltanto dei beni e nemmeno tutti, tant'è che l'Italia rimane con alcuni aerei sui piazzali che dovrà vendere, con gli aerei dei cargo che dovrà fare, con una serie di altre cose. Gli asset dell'Alitalia quali sono? Il patrimonio dell'Alitalia che è a disposizione dei creditori da che cosa è rappresentato? Dal prezzo che la CAI pagherà per avere rilevato alcuni beni e dal prezzo che altri soggetti acquirenti pagheranno per rilevare i rimanenti beni. Il totale farà l'attivo e il commissario dovrà dividerlo tra dei rispettivi diritti di proprietà. E infatti quindi bisognerà effettivamente vedere. La ringrazio anche per la precisazione, perché mi ha anche bacchettata indirettamente per non essere stata molto precisa nella ricostruzione della vicenda, avvocato. Allora, ritornerei però anche su Lehman, perché abbiamo tenuto anche in sospeso alcuni ascoltatori su quest'altro caso, su quale ancora c'è grande confronto. 800240024 per le domande degli ascoltatori. Natalina da Roma, buongiorno. Buongiorno. Senta, io ho telefonato perché io ho fatto questa assicurazione, le Lehman di due cose, di 50.000 euro e di 20.000 euro, e mi trovo in una situazione orrenda. Vorrei sapere qualche cosa dall'avvocato. Sì, allora Natalina, intanto ci deve dire qual è la compagnia con cui ha sottoscritto l'investimento. Il Banco di Roma. E quindi qui abbiamo il caso avvocato Franchi, e credo che rientri sotto il cappello delle iniziative di Unicredit. Allora, se è stata fatta la polizza assicurativa che, come ho sempre detto, assicurativa non era, con Banca di Roma, ricade sotto il cappello Unicredit, e Unicredit ha dichiarato la propria volontà di saldare i rapporti. Quindi è forse il caso che la signora attenda le comunicazioni. Se poi Unicredit non pagherà, allora si potrà agire contro la signora. Infatti io magari leggo anche due righe adesso di un pezzo scritto qualche giorno fa dalla mia collega del Sole 24 Ore, Federica Pezzatti. Il gruppo Unicredit ha in carico 13 index garantite da Lehman e sottoscritte da circa 25.000 clienti, per cui Natalina ce ne sono molti che le fanno compagnia. È un'eredità delle reti appartenenti all'ex gruppo Capitalia, e appunto il gruppo sta studiando le soluzioni appunto per tutelare tutti questi clienti. La comunicazione è arrivata proprio la settimana scorsa, per cui abbia ancora un po' di pazienza. Se vuole Natalina ci scriva anche all'indirizzo Salvadanaio e io, come al solito, girerò tutto all'avvocato Franchi, tanto per disturbarlo anche al di fuori della trasmissione. Cinzia da Verona, buongiorno. Buongiorno a lei. Volevo fare una domanda. Ho spento la radio, non so se è già stata fatta, per quanto riguarda la causa che i consumatori hanno fatto contro Standard & Poor's. Sì. Volevo chiedere se questa causa andasse a buon fine, le persone che non hanno finora aderito, che non hanno fatto niente, in che situazioni si troverebbero? Cioè, beneficerebbero anche loro, gli obbligazionisti, di questa situazione, oppure bisognerebbe fare delle singole cause a questa società diretta? Cinzia ha fatto una domanda molto intelligente. Avvocato Franchi, allora, praticamente l'iniziativa è partita da Bari. Leggo dal comunicato stampa che avevo di qualche giorno fa: 30 risparmiatori difesi dai legali delle tre associazioni di consumatori, Codacons, Confconsumatori, Movimento Consumatori, hanno fatto partire questo atto di citazione nei confronti dell'agenzia di rating, che non ha modificato in tempi che sarebbero stati corretti il giudizio contro i titoli Lehman, che si stavano progressivamente, a vostro avviso, deteriorando. Detto questo, l'obiettivo della citazione contro Lehman Brothers, ricordiamo, qual è? Perché solo 30 risparmiatori ed eventualmente altri possono salire su questo carro? Allora, si sta verificando una situazione analoga a quella che si verificherà con il disastro Parmalat. Noi facciamo cause per molti consumatori riuniti insieme, ma purtroppo allora, così come adesso, non c'era la class action, che entrerà in vigore non sa quando e non sarà applicabile, tant'è che i giudici di Milano e altri giudici, ridendo, mi incolpavano di fare le cosiddette class action all'italiana, perché avevo messo dentro tanta gente, ma che in realtà non poteva essere di fatto, non c'era unica. Un presupposto legislativo, insomma. Esatto. Ancora vigente. Comunque chiarisco subito che questa prima azione non è la sola, anzi ne stiamo già organizzando altre. Ci sono moltissime persone che si rivolgono alle sedi con consumatori per agire in giudizio nei confronti di queste agenzie di rating. Perché abbiamo agito soltanto nei confronti di Standard & Poor's? Perché sebbene sia una società americana, ha una sede secondaria in Italia e può essere quindi convenuta davanti al giudice italiano. Ecco, ma concretamente in termini di risarcimenti di quattrini, avvocato Franchi, che cosa possono ottenere questi 30 risparmiatori che hanno fatto partire l'iniziativa tramite voi? Allora, possono ottenere, da un punto di vista di carattere teorico, possono ottenere il danno subito pari al capitale investito. L'unico problema che si pone sempre quando si fa una causa nei confronti di un debitore è se il debitore i soldi li ha. Noi siamo peraltro dell'opinione che Standard & Poor's li ha, e non solo, vabbè, si potrebbe anche andare poi in America a prenderli con una sentenza italiana. Infatti, sta annuendo l'altro avvocato che è qui con me. Sì. Si potrebbe fare delibare e devo aggiungere, proprio per chiarezza, che proprio il Tribunale di Milano ha appena pronunciato una sentenza per 100 risparmiatori che avevano acquistato titoli Carrier contro la banca BPL Network e al contempo contro Morgan Stanley. Quindi abbiamo una sentenza contro Morgan Stanley, la Morgan Stanley americana, si dice, ma Morgan Stanley non è in Italia, però può essere fatta delibare la sentenza ottenuta dal Tribunale di Milano. Ci sono società che distribuiscono i loro prodotti, per cui si può... Esatto, e poi devo chiudo soltanto dicendo che le agenzie di rating, è vero che non esiste ancora una legislazione sulle agenzie di rating, c'è peraltro, lo devo ribadire, questo codice IOSCO che è stato adottato dalla Commissione Europea e a cui non potranno non ispirarsi i magistrati italiani, autorità giudiziarie, che pone delle regole precisissime circa gli obblighi delle agenzie di rating, e tra questi obblighi vi era un obbligo di di non avere conflitti di interesse, di correttezza e soprattutto di massima attenzione. Ora non capisco come Standard & Poor's non abbia potuto non modificare il codice rating di questa società, quando erano ormai quasi mesi che le cose andavano male. Lo so, però avvocato Franchi, lei ha ragione, però eravamo anche in una fase quando è stata lasciata fallire Lehman Brothers in cui nessuna banca che si trovava in quelle condizioni era stata fatta fallire, quindi c'è stato un certo punto in cui si auspicava e molti erano tutti convinti che sarebbe stata salvata anche Lehman, ma questo è un altro aspetto. Abbiamo finito, ci manca un minuto, 30 secondi però li devo concedere all'avvocato Susanna Buonvino. Abbiamo parlato più volte delle vostre raccomandazioni per approcciarsi correttamente ai prodotti di natura finanziaria, riusciamo a fare una sintesi estrema, avvocato? Riprendendo quello che avevamo detto prima, facendo una summa di tutta la puntata, diciamo che nel caso specifico di Lehman Brothers sembrerebbe non molto facile promuovere un'azione diretta nei confronti degli intermediari che hanno collocato azioni e bond e comunque obbligazioni Lehman, qui, a meno che non si sia in quei casi specifici che avevamo detto, cioè di assenza totale della documentazione contrattuale oppure una mancanza di informazioni successivamente data nel corso del rapporto in essere. Questo per quanto riguarda le azioni in Italia. Per quanto riguarda invece le azioni che possono essere ancora utilmente spiegate dagli imprenditori, si segnalano che esistono già due class action americane che hanno, diciamo, per coloro che hanno acquistato azioni privilegiate serie G a partire dalla data di offerta pubblica del 5 febbraio 2008 e di coloro che hanno acquistato azioni e bond Lehman con codice EasyNews nel periodo tra settembre 2006 ed agosto 2008. Quindi per avere qualche risultato li bisognerà vedere, ecco, come viene la spezzettatura della società no, e come viene la vendita degli asset. Più che altro il problema degli italiani è vedere, considerando che ci sono precedenti giurisprudenziali contrastanti, se sono ammessi gli stranieri alla class action americana oppure sono esclusi, perché in alcuni casi sono stati ammessi e Vivendi ha ammesso, e invece nell'altro caso di Parmalat sono stati esclusi. È una cosa molto complicata sulla quale dovremo tornare. Grazie all'avvocato Buonvino, all'avvocato Graziadè, all'avvocato Franchi per essere stati con noi. Devo salutarvi molto in fretta. Da Deborah Rosciani, a lunedì. Salva Danaio.